20h. Buonasera, benvenuti a Radio Alma 101.9, qui alla Tela Sonora con Gabriella T, Giulietta Pachi e Lea, in ospite d'onore, e Paola Grauso in regia. Meno male che ci sei, grazie. Grazie di esistere. Allora, cari amici, questa sera abbiamo anche degli strumenti musicali in radio. Wow! Questo per calmare gli spiriti, visto che venerdì che siamo tutti cotti ormai. Sì. Non vi dico già questa settimana che cosa è successo, di tutto e di più. Io tra l'altro ho fatto anche un trasloco, quindi... Tu non smetti mai di farlo. I nostri amici radioascoltatori che sono fedeli della Tela Sonora diranno: ma cosa fa la Gabritti? È sempre in movimento. Sì, una nomade. Sì, mi cacciano fuori, questa è la verità. Ah sì? Allora, questa sera presentiamo gli ospiti Gabriella Maleti e Mariella Bettarini, Gianmario Licini, speriamo di averlo in linea, Maurizio Spatola, e poi avremo 5 minuti di coincidenze, chiameremo un numero telefonico e risponderà un poeta. Se il poeta è pronto, leggerà la sua poesia, il messaggio per la Tela Sonora. Se il poeta non c'è, pazienza. E poi abbiamo sempre questo fantomatico appuntamento con la libreria di Lisbona, Cianghito, Poesia Incompleta, il nome della sua libreria, che è una libreria di sola poesia, veramente una vera scoperta. Ci sono libri antichissimi. In italiano? Sì, Poesia Incompleta? Incompleta perché lui raccoglie libri e poi pubblica sul suo blog ogni giorno una serie così di poemi che raccoglie, che trova. E il bello di questa libreria è che c'è solo poesia, entra chi vuole, non vengono offerte bevande, quindi non la classica libreria che poi alla fine è un'enoteca e c'è un bordello allucinante, ma è un vero posto di, diciamo, dedito cultura. E soprattutto così in quieta armonia con il mondo. Comunque, al di là di tutto, questo personaggio Cianghito è conosciuto in tutto il mondo, perché le persone si recano a Lisbona e quando vengono a sapere questa libreria è un po' come una specie di pellegrinaggio. Invece di andare alla Mecca o di andare a Compostela, vanno proprio nella libreria di Cianghito. Anche perché Lisbona ne vale la pena, infatti. Comunque, senza nulla togliere anche al valore di tutte le altre librerie, di tutte le altre città, avremo poi musica di questo, diamo voce alla nostra amica Paola, perché c'è di Double Sense. C'è un idillio, dovete sapere, cari amici radio ascoltatori, che Double Sense ormai fa parte della Tela Sonora. Come si scrive Double Sense? Che l'altra volta sono andata in crisi. Scrive dub come dub, invece no, è scritto dub. Dub come dub. Dub come dub, all come all. Come sense. Quindi se andate a cercare in MySpace dovete digitare questi tre nomi. Allora, diamo via le danze, cosa vogliamo fare? Ascoltiamo i Double Sense. Poi ci parli di loro oppure vuoi parlarci? No, vi parlo dopo di loro. Ok, io intanto vado a cercare le due poetesse, Gabriella Maleti e Mariella Bettarini, adesso vediamo un po' se riusciamo a trovarle. E poi magari, non so, vuoi parlarci un po' della tua amica? Ci racconti cosa l'amica fa? Misteriosa. Ma di chi è stata questa idea di portare? Che cos'è? Un campanellino? È un campanellino cinese. Infatti vedo, bellissimo. Che ci aiuterà a trovare l'armonia. Sì. E invece l'altra trotola? La trotola ci dà il ritmo. Vedremo, non so, vedremo che poi ci hai preparato, perché se... Beh sì, qualcuno... Se ci ispirano possiamo dargli un po' di ritmo. A proposito, qualcuno sa il portoghese? Perché qua Cianghito parla in portoghese. No. Lela? No. Parla anche in spagnolo, in inglese, in francese. Spagnolo, Lea? Sì. Perfetta. Allora Lea, interverrai poi con Cianghito. Bene. Cari amici, vi lascio un attimo, non restate con noi, 101.9 FM. Musica. Ascoltiamo i Double Sense. Reunite. Allora, loro erano i Double Sense, miei carissimi amici. Perché ridi? Perché ridi, Gabri? Detto, c'è un idillio ormai, c'è un idillio in corso e qui ormai Double Sense. Cambieremo il nome della nostra tela sonora, perché ormai qui tela sonora Double Sense in tutti i sensi. Comunque, due parole per i Double Sense. Allora, ripeto loro MySpace, www.myspace.com/doublesense. Restate sintonizzati per avere le loro news e le loro news riguardanti i loro concerti e soprattutto l'uscita del prossimo disco. E niente, io spero di vederli presto qui a Bruxelles o anche in Italia, dato che non sono ancora riuscita mai a sentirli live, quindi sto aspettando con ansia. E li saluto, li abbraccio e in bocca al lupo, ciao. Bene, li abbracciamo anche noi e abbiamo con noi adesso in radio Mariella Bettarini. Mariella, ci sei? Sì, sei stata. Buonasera, senti cara, con me in radio ci sono anche Giulietta e Lea e non Paola Grauso alla regia, non so se riesci ad ascoltarci. Mi raccomando, metti il microfono vicino alla... Così ti ascoltiamo. E dunque, hai un po' di poco tempo per raccontarci invece la tua grande esperienza in poesia e tutti i libri, insomma, che mi hai inviato, che hai inviato a Radio Ald. Senti, appunto, io dovrei parlare a lungo, ma non è possibile, quindi così sintetizzo dicendo che io ho cominciato a scrivere molto presto e ho sempre scritto molto, poesia, ma non solo, prosa, critica. Ho fondato con tanti altri amici naturalmente una rivista, da 25 anni con Gabriella Maleti abbiamo una piccola casa editrice molto attiva, facciamo un lavoro di editing, una selezione, insomma, oltre a questo però io ho insegnato, insomma, quindi è una vita piuttosto attiva e ancora insomma in attività, ecco, sono qui. Bene, direi che è già tanto. E invece parlaci, sai che alla Tela Sonora cerchiamo di invitare poeti, perché la tela è un modo per fare cassa risonanze, quindi raccogliere questa, diciamo, questi nodi nella tela e poi riespanderli nell'aria. Quindi raccontaci un attimino invece della tua attività poetica, perché tu scrivi anche romanzi e note autobiografiche. Ecco, dimmi. La mia attività poetica appunto parte dagli anni 60 e si estende così via via fino a oggi, insomma, ecco, e ho scritto tantissime raccolte che ho messo insieme, e gli argomenti sono vari, sono legati appunto alla vita, al mio in qualche modo impegno di cittadina, insomma di donna, legati agli affetti, al mio profondo amore per la natura, insomma per gli animali. C'è un piccolo libro dedicato alle rondini, insomma, c'è un volumetto di poesia dedicato a una carissima zia che è morta vari anni fa, insomma, e così via. Fare una sintesi non è facile, insomma, mm-hmm. Ecco. Però voglio dire, è un lavoro che dura, non dico da 50 anni, ma quasi, insomma. Bene, quindi sei giovane, sei una donna giovane. Ma insomma, vabbè, ma poi l'età è un segno, voglio dire, in fondo non è né un merito né una colpa, uno nasce quando viene fatto nascere, insomma, per cui è così, esperienza e vita, no? Per cui fino a che si può raccontarla va ancora molto bene. Certo. Vuoi leggerci una poesia? Sì, grazie. Allora, questo testo si chiama L'innocenza ed è di qualche anno fa. La purissima innocenza con cui Francesca mi prese per mano, la bambina Francesca, un giorno povero, nel povero salire di un gran monte, quella tenera mano e pura fronte che con me, storta adulta, pigolavano. In plumi le due teste andavano, cara Francesca, dalla quale io ben poco insegnando, l'innocenza, la pietà reimparavo, questo tiepido vento di timida maestra. Poi il suo tempo segnò, il suo battito, sia vera, nell'oriuolo del mio bianco scontento. Altro riparo, altra innocenza entrò nel luogo ignoto fra la fronte e il mento e i piedi, tutta mi allagò. Ne potrebbe sortire un cinguettio, pensa, più che una voce. Il vuoto chiama il pieno e viceversa. Allagata, pudibonda, inversa, feci provviste d'uva e d'innocenza, di noci per l'inverno e di esperienza, d'esperienza del vivere e morire, del piegarsi e spiegarsi a più non posso, del gas nervino, della perdita d'occhio, del perdifiato e del crimine rosso. Ma ancora l'innocenza mi attendeva, mi tendeva i suoi agguati, furono ultimi calze e sospiri calati su gambe incerte d'infantile vecchia, i tremanti selciati premuti accanto, i filiformi fiati della pietà, e esplose l'innocenza quando vidi i suoi neri ciechi occhi beati aprirsi a riguardare il dove e il quando, sentì sparire ogni cesura andando tutti insieme al morire, chi danzando, chi vinto a tentoni arrancando, chi intimidito dall'ottimo reame passo passo ostinando sé nel duro lastrico coi suoi piedi inciampando, intrisi tutti di innocente innocenza, tutti insieme colpiti dal pettirosso che svolò sventando filante la sua trama, dall'equina gazzella, da una brama che accende sé e i suoi soli esiliando, e ride e piange e parla e scrive e a lungo tace solo bianco imparando. Senti, hai un modo di scrivere poesia che mi fa un po' pensare a quello che stavo anche leggendo in quella raccolta perché tu hai Gazebo, collana di poesia, però questo sì. È un nome, Quenò di Quenò, quindi io sì, le stavo... questo è il libro di Gabriella Maleti. Infatti, sì, eh. E quindi, però voi come mai, cioè scrivete insieme o... No, scriviamo assolutamente in maniera autonoma, no? Ah. Gabriella fa prosa, narrativa, poesia, fa video, è fotografa, no, abbiamo una... Però vedo che... Lei... un'attività parallela, ma ognuno di noi ha la sua scrittura, il suo modo, ci sono delle come dire, delle concomitanze, delle collaborazioni, certo, ma non sul piano della scrittura creativa, questo non di certo, insomma, ecco, ognuno ha la sua formazione, la sua forma mentis, soprattutto il suo stile, insomma, questo è molto importante, insomma. Ecco, sì. Più che altro c'è un dialogo forse andato. Beh, certo, il dialogo c'è, anche perché c'è una collaborazione culturale molto forte nella rivista, nella casa editrice, ma insomma lei ha tantissime, voglio dire, altre forme espressive che io per esempio non ho mai avuto e che non, diciamo, non mi riguardano, non mi interessano, mi piacciono infinitamente, ma che non sono mie, insomma lei è fotografa, è stata professionista, è videomaker, quindi insomma voglio dire siamo due personalità congeniali ma assolutamente ben riconoscibili, insomma ben diverse, ecco. È lì con te oppure no? È qui con me, ah. Se vuoi te la passo. Allora diciamo che sì, non so se Gabri vuoi fare, sì Giulietta vuoi fare una domanda prima che te ti la, vedevo? Te la passo, ti passo sì. Gabriella Maleti. Ok, sì va bene. Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. No, giusto dicevo, ecco, che questo dialogo si vede anche nel senso nella raccolta di Gabriella ci sono varie Pronto? Poesie dedicate a Mariella. Sì, ecco. Ciao Gabriella, ciao. Come stai? Bene, bene, senti, sono qua. Abbastanza. Allora, raccontaci un po', perché io prima ho confuso un attimino i titoli dei libri e ho parlato a Mariella invece del tuo libro, Quenò di Quenò. Che no. E quindi, non so, ci vuoi raccontare un attimino invece la tua esperienza, se fai poesia o addirittura passando a questo libro e raccontandoci un attimino invece? Senti, in due parole io direi questo, io ho cominciato molto presto a scrivere, ero ancora in campagna, era la casa di campagna perché io sono figlia di contadini, quindi noi eravamo ancora lì, uh-huh. E mi ricordo che andavo su a scrivere poesie in soffitta vicino ai nidi delle rondini, questo è stato il mio inizio, delle piccole poesiole naturalmente, poi via via naturalmente ho continuato, ecco. Ho continuato con la poesia per molti anni, poi dopo sono passata alla prosa, ho fatto un libro autobiografico che si chiama Morta Famiglia e che è un po' la mia storia, abbastanza tragica, e poi continuavo intervallavo poesia con prosa, ecco, e sono arrivata qui a questi ultimi libri, a Che no di Che no, ora ne è uscito un altro con dei racconti, sono cose non... Naturalmente oggi in questo tempo storico che ho pubblicato con la nostra piccola casa editrice, perché degli editori non si trovano, non ti risponde più nessuno. Come non si trovano? Qui non ce ne... si trovano, qui in Italia non ci sono. Ah, qui in Belgio invece ce ne sono tantissimi. Dove? Qui in Belgio. E allora bisognerà che le mandi lì, datemi qualche indirizzo, ma... io ancora... Sì, ti scrivo. Tu sai che il Club del Libro è diventato associazione ormai da un po' di tempo, sì. E noi editiamo anche libri, quindi se ti interessa... Non so se ti ho dato l'ultimo, scusami se ti interessa. No, qual era? No. Bisogna te lo mandi. Allora lo mandi. Sono dei racconti, va bene. Dai, leggici qualcosa di tuo, perché abbiamo dato... Allora, io ho qui una poesia, un inedito, sì. Che l'avevo già preparato, fa parte di una raccolta che si chiama Esperienza, quindi incomincio. Bene. L'impaginato è lì, tra i miei quattro mobili, alcuni impiallacciati. Così quando li caricai sul vecchio camioncino per portarli a casa, dalla casa di mio padre morto, incominciò a piovere, presero acqua, l'uomo del camion li aveva coperti con un telo, ma nella corsa svolazzavano agli angoli e fitte gocce si fermarono lì sopra. L'autista guidava imprecando: si bagnano. Io dicevo: pazienza, che vuol fare? Si gonfieranno, diceva l'uomo guidando col cappello da muratore in testa, le mani tozze, tagliuzzate parevano quelle di mio padre, che ora le teneva al buio, intrecciate sul petto, inermi, stravagante uomo, dopo averle usate nel bene e nel male, specie nell'ira. L'uomo del camion agguantava il volante come un collo di donna, un collo di mamma, come mio padre. È morto giovane, si diceva di lui, 72, ma ancora con molti capelli neri. È morto di cioccolato, una sera diversa, sensitiva, con paura. Abbandonato il capo all'indietro su una seggiola, restò così ore, cioccolato dietro le ante, nei cassetti. Pioveva e le quattro carabattole sul camioncino in curva si muovevano, seppure vicine davano piccoli cozzi, crepassero, ma sì, tanto. Gonfiavano d'acqua, il legno si sollevava e nemmeno a martellate sarebbe andato giù, un tempo infame. I piatti nelle scatole facevano baccano e i tegami si urtavano. Non stanno zitti, diceva l'autista al volante, anche se le corde le abbiamo tirate. Ma non fa niente, ripetei. Il carico sommesso parlava di sé. Diceva cose che era meglio non sentire. Portavo a casa la vita pietosa di un uomo, per caso padre. È qui l'impaginato, nel primo cassetto. È sempre stato lì. Grazie. Ho finito. Cara, non so se stai ascoltando, se il suono giunge fino a te. Le tue ultime parole sono state accompagnate da... questo da una lieve musica, campanellino, no, questo campanellino molto bello, perché sentivamo la tua emozione, abbiamo voluto in qualche modo lasciarla andare. È tutto vero, ecco lì, è proprio per quello ci siamo unita alla tua emozione. Senti, allora io vi proporrei, dal momento che in radio il tempo è sempre molto molto poco, anche se alla tela sonora facciamo, diciamo, prevalentemente poesia, diamo spazio alla poesia, io direi a ottobre, quando riprenderemo le puntate, di dedicare invece una puntata per la vostra scrittura, la vostra prosa. Grazie. Perché i libri che ho sono più, come dire, toccano di più questo vostro modo di scrivere, quindi diamo più spazio a ciò che abbiamo letto fino adesso. Grazie. Quindi siete d'accordo? Siamo molto d'accordo e io ti ringrazio di cuore. E veramente. Facci avere, sono allora molto riconoscente. Anche noi, facci avere allora qui alla tela sonora le proposte da editare, così ne parliamo e chissà che finalmente non riesca a venire. Posso farti una domanda? Certo. L'indirizzo tuo me l'avevi dato, vero? Sì, io te l'avevo dato, poi adesso l'associazione ha cambiato sede. Ecco, no, perché ti volevo mandare ancora 2 o 3 libri. Perfetto, allora poi ti diamo il nuovo indirizzo. Oppure... Lo dai per email? Sì. Certo, va bene. Bene. Giulia, molte grazie. Ecco, ti accompagniamo con questa musica. Grazie infinite, carissimi. Un bacio grazie anche a Mariella. Ciao. Grazie di cuore, grazie. Arrivederci. Ciao. Bene, cari amici, è sempre un'emozione avere con noi persone che hanno comunque che scrivono da tempo, perché nelle loro così parole, nelle loro poesie ci sono eventi che appartengono alla loro vita, e quindi più si cresce, più si va avanti, più a volte si soffre, quindi la poesia a volte è un modo anche per espiare e per in qualche modo vivere, sì, e anche cercare così di guarire un po' delle proprie ferite, perché non sempre è facile. Comunque ammiriamo il coraggio di Gabriella e Mariella, la loro casa editrice. Due caratteri molto diversi. Infatti molto diversi, sente subito dalla voce anche chi trainante, chi invece segue di più, ecco. No, ma è molto molto interessante. Poi bello anche il nome delle due poesie, la Innocenza la prima e Esperienza la seconda, quindi poi nel blog riporteremo un po' questo gioco di parole. Direi, mandiamo adesso invece note volanti? Cosa c'hai? Andiamo Alessandro Zilli. Alessandro Zilli, Note Volanti. Voi sapete che c'è questo impegno con Fabio Volpi, che ha questa, si può chiamare, casa discografica editoriale Note Volanti. Quindi la tela sonora non è soltanto parola, ma anche suono. Noi siamo alla ricerca di nuove voci, nuovi gruppi. Voi sapete che il lavoro anche che Giulietta sta portando avanti con la Troupe Nomad è un lavoro che verte moltissimo anche alla musica. Alla musica, quindi la poesia, ma la musica, soprattutto la sonorità delle parole. E quindi cerchiamo di scoprire gruppi giovani che fanno. Contattateci e soprattutto contattateci. E musica soprattutto nuova. Sì. Nuove voci. Perché? Perché radio, la tela siamo noi. Noi siamo un po', effettivamente, a volte siamo un po' come dei ragnetti pronti nella tela ad attirare un po' queste mosche. Ma le mosche non solo sono i poveri. Sì, li stiamo intimidendo più che altro. No, non ce li mangiamo. Non mai queste mosche. No, non ce le mangiamo, anzi noi veneriamo. Alla larga. Veneriamo questi poeti e li ringraziamo per la fiducia, perché dovete sapere che nel mondo ci sono tantissime belle persone che rimangono nascoste e che fanno cose splendide. La tela sonora è semplicemente uno spazio per queste persone, non è nostra, è dei poeti. La tela si sta espandendo e noi semplicemente siamo alla ricerca di queste voci che sono poco conosciute ma che hanno tanto da dare. E quindi benvenuti e grazie della fiducia che ci avete sempre dato fino adesso. Musica, prego, okay. Regia, andiamo a chiamare i prossimi ospiti. Look at the boy that... You like it all night. Buonasera cari amici, abbiamo con noi Roberto Morpurgo. Ciao Roberto. Ciao Gabriella. Bene, buongiorno. Con me in radio ci sono anche Giulietta, Paolo Grauso e Lea qui con me. Ciao Giulietta, io mi sento un po' male. Non importa, noi ti sentiamo bene, hai 5 minuti di tempo. Sì. Vorrei che tu gentilmente leggessi una tua poesia e poi ti faccio una domanda. Va bene. Vai. La poesia si chiama Mare. Mare 1 ed è tratta dal libro L'azzurro del mare. Mi abbaglia la terra che incespica l'onda, luminaria di scogli perduti in azzurri, o in ulcere nere si intrica e le sere dirada, la biga che guizza nel sole fra briglie di giada e in spighe di mare mi irriga. Finita. Già finita? Sì, è breve. Allora, la domanda... Poesie brevi. Brevi, poesie brevi, allora poesie... Io ne voglio un'altra. Io, la mia domanda è... Un'altra? Mi puoi leggere un'altra poesia? Certamente. Ti leggo la prima che apre il libro, anche questa è molto rarefatta. Cammino l'argine. Cammino l'argine dove crepita, favolosa folla, la schiuma che asciuga appassita fra semi di braci, la voce di cani in acide ombre di sole da un ramo di pino inondato. Finita. Hai mai pensato a musicare le tue poesie? Io ho scritto canzoni quando ero giovane, ho smesso 10 anni fa. Ho iniziato proprio così, scrivendo poesie che poi musicavo o musiche che poi si sente molto. Da un'altra breve? Sì. È brevissima. Cammino perché strichi la ghiaia fra ombre e minareti di cicogne. In un lembo di terra spiccia come crine secco da una piuma d'aglio un nembo di cielo. La sera fra questi nidi spigola un temporale. Se sa, se finì. Si è sentita? Sì, abbiamo sentito. Allora, grazie mille. La domanda invece un trittico. La domanda sorge spontanea. Qual è la differenza allora tra la classica poesia concettuale di concetto, quindi parola complessa? No, la poesia, scusami, ti sento male ora. La tua poesia concettuale dalla poesia sensuale. Poesia di senso. No, la mia poesia è lontana dalla poesia di concetto che io non amo molto perché alla poesia chiedo quel che tutto il resto non sa fare, cioè di creare qualche cosa che non esiste, come dei corpi. La poesia di concetto credo che sia invadente e abbia rovinato il panorama poetico italiano, che era fatto invece da grandi poeti di immagine e di sensualità. Mm-hmm. E quindi tu hai intenzione con la tua poesia invece di continuare questa tradizione di poesia... sensuale. Sì, anche se non mi sento legato in modo particolare, non amo nel mondo dell'arte, nell'esperienza artistica, le filiazioni ideologiche, le fedeltà dogmatiche, però mi sento molto profondamente legato a questo tratto della cultura italiana che è di avversità al sistema, di avversità e di scarsa propensione filosofica, mentre notoriamente ha grandissimi prosatori e grandissimi versificatori, dal Foscolo a Montale, a molto diversi tra loro, ma furono tutti accomunati da una passione, da un talento per la sensualità, per la sonorità del linguaggio che i poeti operanti oggi hanno decisamente perduto. Va bene, ti ringraziamo per aver lasciato questa testimonianza, questi 5 minuti grazie di coincidenze alla Tela Sonora E... grazie a voi e spero a presto. Sì, anche perché io aspetto sempre i tuoi iscritti, sai che abbiamo un blog, possiamo pubblicare sì, anche le mie cose di teatro, infatti, e soprattutto anche le tue se hai dei momenti che riesci a registrare, noi possiamo, o anche dei video, noi possiamo caricarli nel blog, quindi anche un modo per... Io ho delle cose registrate da me e anche dei monologhi, dei dialoghi recitati. Perfetto. Da me, recitati da attori, posso mandarvi qualcosa di quelli. Perfetto, benissimo, li aspettiamo con gioia. Grazie, ti molte. Ringraziamo di aver partecipato, un grande bacio, ciao. Cari amici, come vedete questa sera è tutto un... sì, perché siamo alla fine, è l'ultimo mese, i poeti devono per forza... Allora, adesso passare ce la facciamo... alla tela, prima di andare in vacanza. Sì, fatti passare alla tela. Allora, è come un appuntamento obbligatorio prima di andare in vacanza, vogliono dare il massimo, vogliono lasciare questa impronta. Allora, l'impronta adesso cercheremo di darla a Cianghito, chiamandolo a Lisbona, se riusciamo a prendere ci la proviamo. Linea. Quale musica ci propone? Ascoltiamo Trofimovic. Va bene, sì, sempre di Note Volanti, vi lascio i microfoni, poi io volevo che Giulietta strappasse una intervista a Lea, ma non riusciamo neanche a farle due paroline, sì, sì. Così bionda. Adesso? Ma magari adesso, non so. Quando volete. Quando si sente preparata la ragazza? Potremmo... Ancora no. No, allora, mandiamo il... vuoi ripetere per cortesia la musica? Trofimovic. Perfetto. Con L'imperfetto. E poi parleremo invece di cose perfette. Giulietta e Lea. Vi lascio, non scappate, state lì incollati. Eccoci di nuovo, cari amici, abbiamo Cianghito da Lisbona. Ciao Cianghito, hola, che tal? Bien. Bueno. En español, en inglés. En español. Español. Bueno. Todo el mundo habla español aquí a Radio Alma. Ya, gracias. Bueno, mira, eso es un momento muy importante y particular, porque la radio italiana, Radio Alma, es también radio portuguesa y radio española, pero lo siento mucho, no hablo portugués. No, ningún problema. Bueno. Cuenta un poquito la historia de esa librería donde se puede encontrar solamente poesía. Bueno, es una historia de amor. Ah. Yo ya había tenido un bar librería pequeño, distinto, y donde no iba nadie. Uh-huh. En un lugar muy bonito, pero no iba nadie. Lo cerré, me enamoré de la mujer de mi vida. Y luego ella, como las mujeres fuertes que son, me dio la fuerza para reempezar ese sueño. Y aunque no sea una socia económica, es una socia afectiva y me da consejos y tal. La poesía es una gran pasión mía, pero también de mucha gente que conozco. Y me parece la mejor forma de conocimiento propio y ajeno. Mi madre me dijo una vez que la poesía es la mejor forma de poner cortas las distancias entre dos personas, y eso me parece muy cierto. Después, Portugal tiene una tradición muy, muy antigua de poesía y de poetas. Es tal vez, quizás, la mejor parte de la literatura portuguesa sea la poesía. Luego en el mundo hay, hace 27, 28 siglos, poetas, gente que habla de sí, de los otros, que busca la palabra cierta para, bueno, para nombrar los miedos, para nombrar la muerte, el amor, el olvido. Y bueno, te podría decir tanto y tampoco. Pero, no sé. ¿Tú de dónde eres? ¿Cómo? ¿Eres de Portugal? ¿Eres portugués? Sí. ¿Sí? Vale, sí. Muy bueno. Lisboa. Porque tienes el acento argentino, por eso. Dicen mis amigas aquí en radio que tiene un acento argentino. Ah, sí, eso me dicen muy frecuentemente, porque trabajo también en el bar del teatro de mi mamá y convivo con muchos argentinos, porque ahí hay una milonga y viajé por Sudamérica, en Uruguay. Mira, me interesa muchísimo lo que deciste de la poesía, que es una manera de poner corta la distancia entre las personas. Y para ti, sí, muy justo esa manera de. Y según tu parecer, ¿por qué la poesía tiene ese poder? Bueno, tal vez porque sea. Yo estoy con dos poetas en mi librería, o sea, me da un poco de vergüenza de hablar de la poesía, pero me parece que es un esfuerzo de nombrar, más que todo de nombrar el miedo, o el desespero, o la alegría, porque también hay, pues, la gente cree que la poesía es siempre muy, muy pesada y muy nostálgica y muy melancólica. Y también hay poesía de celebración, los indios la tienen, los africanos la tienen, las canciones medievales en España, en Portugal. No sé exactamente por qué, pero siempre me parece, cuando leo un gran libro de poesía, que me pone algo más adentro, me enseña cualquier cosa, me a decirlo bien. Yo estoy buscando 10 años la manera correcta de decir una cosa sobre un amigo, sobre la muerte, sobre una pérdida muy grande. Y luego voy a leer un poeta de mi corazón, y ahí encuentro esa manera sucinta, económica, directa, de decir eso exactamente, sin decir más ni menos. Y eso es una bendición grandísima. No sé, y un placer, ante todo un placer. Sí. Que me ha dicho que tiene dos poetas contigo en tu librería. Sí, dos poetas. ¿Y quieren hablar los poetas y leer una poesía? ¿Quieren hablar? Les pregunto. Sí, si quieren leer una poesía, sí. De Italia, no. Están como niños, quedándose rojos de vergüenza. Oh. Como Lea. Como yo acá. Que no hablo. Paola. No es verdad. Y así nadie de Lisboa. Pero me... Que no hablen, solo leen una poesía. Que no hablen, que lean algo. Que lean algo, sí. ¿Quieren leer? No, están. Tampoco. Muy, no sé. Ambos con una cara. Pero es de... la chance. Me dicen que están moribundos. En portugués, no en español, en portugués. En portugués, no, están, dicen que no. Ok, ¿y tú, Changuito, quieres leer una poesía? Por favor. Si yo quiero leer una poesía. Sí, por favor. Sí. Oh, gracias. ¿Pero qué? No sé. ¿Pero qué? Déjame ver, porque no preparé nada, me olvidé de esa... Toma un libro de tu librería, ¿acaso? Sí, estoy buscando... Mira, te puedo leer algo cortico de un poeta que a mí me gusta mucho. Che potrebbe essere, io che sé, Mario Benedetti? No. Sì, sì, per favore. Sì. A ver si lo encuentro. Hay un poema que se llama Táctica y Estrategia. Oh. No sé si lo conocen. No, no lo conocéis. No, no. Lo conocemos, no. No. No. Lo queremos escuchar. En un minuto, sí, en un rato sí lo conocemos. Sí, dice, es de Mario Benedetti, ese poeta uruguayo bellísimo. Dice, mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entren los dos, no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Es un poema lindo. Mario Benedetti es quel poeta que es muerto de hace un mes. Sí, hace un par de meses. Me han enviado su poesía sobre la alegría. ¿Sobre la alegría? Sí, que él dice que la alegría es un derecho, es algo que tiene siempre que estar en tu corazón. Sí, es muy bonita. Bene, cari amici. Ah, la tela sonora è questo, una coincidenza. La linea telefonica è crollata ed era giusto così, perché adesso abbiamo un po' di musica e poi abbiamo l'ultimo poeta, Maurizio Spatola, che pensate scriveva artista eccetera, a una certa età è diventato cieco. Volevo dire una cosa. Dimmi. Che comunque è stato bellissimo entrare in questa atmosfera di questa libreria di Lisbona con questi due poeti timidi portoghesi come noi e portoghesi che non vogliono leggere le loro poesie. Sapete cosa facciamo, cari amici della Tela Sonora? Se Giulietta è d'accordo, noi lo richiamiamo Gianghito. Tutti i venerdì o quando comunque abbiamo 5 minuti in più di tempo, telefoniamo a Cianghito e vediamo se c'è, cosa ci risponde, cosa succede in questa libreria. Questa libreria a Lisbona. Saranno i 5 minuti di coincidenza, Lisbona-Bruxelles. Bene, musica ragazzi, abbiamo... Bene, ascoltiamo i Double Sense. Ah, l'amore, cosa non fa l'amore? Dai, che forza, Maurizio ci aspetta per l'intervista, vai. Tengono ci la guarda senza stella che stanotte sembra più forte. Tira orma occhi aperti, ingannano chi stu cuore. Sembra più scura. Cinta paura giù passata, superata. Senza paure care, senza paure sape. Solo una speranza chi stu treno sa portata. Pa chi sapeve soffrì, senza paure capire. Occhio come un mare, ma fonda una stimmana. Uno sai boccare, ma io rimando con te. Io più forte, stanotte sai non dorma. Deve grinda la luce, più forte sai ma brucia. Una luce sta nascendo, più belle che la che è. Mai non mi scorda, mai non mi scorda. Cammina piano piano che sta terra sulla sanna. Mai non mi scorda, in un mi scorda. Scaccia sti pensieri rimana oggi con maiera. Sembra più scura, sembra più scura. Sì, oggi sto carenna, poi in mano sto fuglienna. Lontana te, è in un mi scorda. We'll be right back. senza stella che stanotte sembra più forte. Il orma occhi aperti ingannano chi stu cuore. Sembra più scura. Ok, loro erano i Double Sense, e li saluto, ne approfitto per salutarli e lascio la parola a Giulietta. Maurizio, sono da... Vogliamo leggere un testo in multilingue, però leggiamo solo un piccolo estratto, io e Lea, che niente, si capisce di cosa parla. Langsam, aber sicher staute sich der Fluss im Turm zu Babel. Le mouvement s'arrêta. Il ralentissait d'abord et puis s'arrêta. Die Menschen blieben stehen und staunten. Sie standen und staunten. Tout le monde regardait l'étrange oiseau qui devenait énorme maintenant. Il grandissait sous le poids des regards. Oh, wonderful! How cute! Sbavando di voglia. Io voglio, io voglio! Shunda, Shunda! Ils le désiraient avec leur corps entier. Ils en tremblaient d'envie. Et chacun l'appelait dans sa langue. Ich. Io. Je. Mi. Eu. Myself. Ego. Ego. Moi-même. Ai. Eccoci di ritorno. Buonasera cari amici, abbiamo con noi finalmente Maurizio. Maurizio, ci sei? Sì, sono qua. Perfetto. Buonasera, allora, benvenuto alla tela sonora. Scusaci se siamo in ritardo, ma abbiamo avuto una puntata abbastanza movimentata e nonostante tutto abbiamo giusto 6 minuti da dedicarti e poi magari dopo le ferie estive con più calma troveremo il modo anche di leggere le tue poesie. Vuoi raccontarci qualcosa di te intanto per farti conoscere i nostri amici radioascoltatori? Allora, buonasera, sì, sono Maurizio Spatola. E io ho partecipato negli anni 60 e 70 e successivi a quel movimento che si è chiamato Neoavanguardia Italiana, cioè Neoavanguardia della letteratura e anche dell'arte. Questo movimento è nato dopo il gruppo 63, soprattutto in Italia, che era successivo alla pubblicazione di un libro di poesie di 5 autori che andavano al di là dei linguaggi precedenti, e quindi sia dell'ermetismo che del realismo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, dell'impegno che era quello dei Pasolini o della rivista Officina, eccetera. In quegli anni sì, nacquero molte iniziative sia di poeti e artisti per una ricerca sperimentale, si chiamò anche sperimentalismo questo movimento, e io ho preso parte come editore insieme a mio fratello Adriano, che invece era un poeta attivo e che è stato un po' un personaggio chiave di quegli anni, insieme ai Sanguinetti, o ai Pagliarani, agli Antonio Porta, ai Balestrini, ecco. E ha dato vita insieme a me a una casa editrice che si chiamava Geiger, come il contatore per la rilevazione della radioattività. Demmo questo nome alla nostra casa editrice perché non volevamo che la nostra piccola casa editrice fatta essenzialmente in casa, a mano quasi, ovvero i libri venivano confezionati in poche centinaia di copie e fatti in maniera molto artigianale. Ecco, questa casa editrice funzionasse un po' come un rilevatore di questa radioattività positiva che era la creatività nuova, sì, della nuova letteratura, della nuova arte. E dalle edizioni Geiger nacque anche la rivista Tam Tam, che è stato un punto di riferimento fondamentale negli anni 70 e 80 fino alla morte di mio fratello Adriano, che avvenne nel 1988 a soli 47 anni e che ha interrotto anche per me questo viaggio nello sperimentalismo letterario. Io comunque avevo iniziato fin dai primi anni 70 a fare il giornalista, quindi avevo anche un altro mestiere. In quegli anni in Italia, ma con vasti collegamenti internazionali, sia europei che in America, Sud America, in Giappone e in Australia, si era verificato un movimento spontaneo di ricerca di nuovi linguaggi letterari e artistici. Qui sarebbe troppo, ho troppo poco tempo per spiegare tutte le ramificazioni che si verificarono allora, ma basti pensare che all'origine di tutto c'era un po' stato il movimento Fluxus, nato alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 in America, che si basava su quello che viene chiamato intermedia, ovvero una contaminazione dei vari linguaggi espressivi dell'arte e della poesia, nel senso che la poesia poteva usare anche i linguaggi della pittura e dell'architettura e della musica e viceversa, e quindi i confini fra i vari tipi di letteratura o di arte venivano a cadere, oppure si mescolavano, ecco, nel senso che ognuno seminava nel campo del vicino e se ne traeva un vantaggio reciproco. Senti, invece io ho accennato ai nostri amici, dal momento che purtroppo la puntata di oggi sta per terminare, ma ce ne saranno delle altre per darti più tempo, che tu hai avuto qualche anno fa una avversità, e nonostante tutto... Beh, io direi che vale la pena dirlo, chiudere la puntata, avrai un minuto di tempo per dirlo, però è molto importante. D'accordo, sì, è fondamentale, nel senso che mi ha ridato una spinta vitale. Cioè nel 2001, a causa di un glaucoma non diagnosticato o comunque da me un po' trascurato, mi ha provocato la cecità totale, ma questo in un momento in cui stavo attraversando un momento di grave crisi personale, di depressione a causa della morte di uno dei miei due figli, e mi ha aiutato paradossalmente a rinascere, quindi da allora, quindi, ma non subito, ma dal 2003-2004 ho ricominciato a occuparmi di poesia, soprattutto di poesia visuale e di arti visive, cosa che sembra incredibile per uno che non ci vede, ma sto da un po' di tempo anche curando su un sito internet che potete anche vedere. Semplicemente digitando su Google il mio nome, sì. Maurizio Spatola, apparirà come prima voce nell'indice archivio Maurizio Spatola, e vedrete che sto mettendo in online molto materiale del mio archivio sulla poesia visuale degli anni, poesia visuale e non solo visuale, Maurizio, degli anni 60 e 70. Perfetto. Maurizio, allora la puntata è finita, abbiamo 10 secondi prima di chiudere. Ti faccio una proposta. Sì.